Ci sono due foto incastonate nel tempo che voglio usare come inizio di questa storia. Sono due foto scattate nell'arco di poche ore in una piazza molto famosa, Campo dei Fiori a Roma, l'8 marzo del 1972, la giornata internazionale della donna, o la festa della donna, come siamo abituati a chiamarla ora, con l'idea che sia qualcosa che va festeggiato e basta. La prima delle due foto ritrae Jane Fonda, sorridente, lo sguardo sapientemente rivolto in camera. Con il pugno alzato una folla di persone intorno a lei che la guardano con ammirazione. Ha la stessa pettinatura militante della famosa foto segnaletica scattata 2 anni prima da un poliziotto di Cleveland. Capelli corti davanti e lunghi sulle spalle. Anche in quel caso, pugno di protesta alzato a favore di Camera. La foto di Campo dei Fiori finì invece su tutti i quotidiani italiani per raccontare quella che di fatto fu la prima manifestazione organizzata dalle donne italiane. Voluta dall'unione di diversi gruppi femministi che avevano trovato un modo di mettersi insieme, tanto da riuscire a invitare Jane Fonda a presenziare, evidentemente. Nel 1970 era passata la legge sul divorzio, il movimento di liberazione delle donne aveva cominciato a essere un'entità pulsante e viva. Quell'8 marzo del 1972 era insomma una specie di consacrazione. Anche se c'è chi dice che le donne presenti erano solo qualche centinaio e non 20.000, come riportato dai giornali dell'epoca. Di sicuro furono decine quelle che vennero caricate dalla polizia senza motivo, ma torniamo alle foto. Quello stesso giorno, nella stessa piazza, viene scattata un'altra foto che definisce la storia che voglio raccontare. Ritrae una giovane donna che indossa un eskimo, è presa di lato. La donna non ha la bellezza disarmante e perfetta di Jane Fonda, il suo sorriso hollywoodiano. In realtà la donna non sorride, è come colta di sorpresa mentre tiene in mano un cartello con scritto Liberazione omosessuale. La donna non sa, o forse chissà, per una frazione di secondo lo immagina, che quella foto cambierà per sempre la sua vita, che da quella foto non ci sarà ritorno. La donna si chiama Maria Silvia Spolato e questa è la sua storia. Mi chiamo Sara Poma e questo è Prima, la storia della prima donna ad aver fatto un coming out pubblico in Italia. È la storia di come stavano le cose prima e di come, grazie al coraggio di alcuni e al sacrificio di molti, sono diventate più semplici, anche per me. Nell'aprile del 2020, nel pieno del primo lockdown, ho deciso di fare una cosa che, con il senno di poi, mi ha salvato la vita. O meglio, mi ha aiutato ad avere persino qualche momento di felicità nell'anno più orribile della storia. Mi chiamo Sara Poma e questo è Carla. Ho raccontato la La storia di vita un di mia nonna quaderno che Carla in un racconta una podcast vita, che porta il quella di suo Arianna, nome. Mentre una Carla ragazza prendeva del vita, ho Novecento che realizzato attraversa che la la sua guerra storia di di donna Arianna. del dopoguerra parlava di tante donne normali, ma straordinarie come lei. E poteva far scoprire qualcosa a tante figlie e nipoti come me. Raccontare la sua storia mi ha aiutato a capire cosa ha significato essere una donna durante la guerra e nel dopoguerra, e nel suo caso cosa ha voluto dire crescere una figlia da sola in un contesto proletario. C'è una cosa però che la vita di mia nonna non poteva dirmi, perché non poteva applicarsi alla mia storia personale, ovvero com'era essere gay in un'Italia lontana nel tempo? Come sarebbe stato per me se invece di fare coming out negli anni 90 l'avessi fatto negli anni 60 o 70? Cosa sarebbe successo nella mia famiglia, nelle mie relazioni, nel lavoro? Come avrei potuto vivere la mia vita se invece di nascere nel 1976 fossi nata 40 anni prima? Quando ho scoperto la foto di Maria Silvia Spolato e tutto quello che si dice abbia innescato, ho pensato che lì avrei potuto trovare le risposte che cercavo. All'epoca della foto di Campo dei Fiori, con il cartello Liberazione omosessuale, Maria Silvia aveva 37 anni. Se si fa qualche ricerca, anche approssimativa, quel gesto viene raccontato come il primo coming out pubblico di una donna lesbica in Italia. Ho detto coming out e non outing perché non sono sinonimi come di solito si pensa. Coming out è quando una persona di sua spontanea volontà decide di dichiarare il proprio orientamento sessuale o di genere. Outing è quando qualcun altro decide di farlo al posto suo senza il suo consenso. Il coming out viene agito, l'outing viene subito e la differenza è enorme. Nel caso della foto di Campo dei Fiori si crea una specie di cortocircuito perché Maria Silvia fa coming out, decidendo quel giorno di scendere in piazza indossando quel cartello. Ma allo stesso tempo chi la fotografa e pubblica quella foto senza il suo consenso fa outing. Anche se andando in manifestazione con quel cartello, forse quello che desiderava era proprio di essere fotografata per dare visibilità alla causa. In ogni caso, la cosa importante è che è la prima volta che una persona italiana viene fotografata nell'atto di esporre la propria militanza omosessuale. Anche se la foto in questione viene pubblicata soltanto da una rivista, Panorama, come corredo di un'intervista a Simone de Beauvoir, che parlando di femminismo dice: «Anche le donne omosessuali possono essere utili al movimento». Nella didascalia non appare il nome di Maria Silvia. Ma è possibile, anche se non verificato da fatti o documenti, che quella piccola ma al contempo gigantesca esposizione mediatica sia stata l'ultima goccia a scatenare una serie di conseguenze che l'avrebbero portata a perdere il lavoro che svolgeva all'epoca: l'insegnante di matematica in una scuola pubblica. Non svelo niente che non si trovi già su Wikipedia se dico che un paio d'anni dopo la foto e dopo aver perso il lavoro, Maria Silvia sparirà nel nulla per quasi 30 anni. Vivrà per strada e finirà la sua vita accolta in una casa di cura a Bolzano. Ma se c'è una cosa che mi ha insegnato questa storia è che la realtà è molto più complessa di una pagina su Wikipedia, molto più incerta, e che le figure che come lei, magari loro malgrado, diventano simboli di qualcosa, difficilmente sono così bidimensionali come vengono riportate su una pagina o su un articolo su internet. In ogni caso, quel gesto, lo scendere in piazza nel 1972, insieme alle femministe con il cartello Liberazione Omosessuale, fu il compimento coerente di una militanza iniziata anni prima, ma prima di tutto di una presa di coscienza di essere gay, di cui però non sappiamo molto. Maria Silvia non ha lasciato diari, solo scritti militanti e poesie, che però saranno pubblicati dopo quel fatidico 1972. Di lei sappiamo che era nata a Padova nel 1935 da una famiglia presumibilmente benestante perché aveva potuto studiare, addirittura frequentare un'università. Suo padre si chiamava Luigi, ma tutti lo chiamavano Gino. Era quello che oggi si chiamerebbe direttore di filiale presso la Banca Cooperativa Popolare di Padova. Sua madre aveva un bellissimo nome esotico, che chissà da dove veniva, si chiamava Eluria. La famiglia Spolato viveva in centro a Padova, in via Barbarigo, al limitare del quartiere del ghetto. Ma nulla fa credere che avesse origini ebraiche, anche perché dopo le leggi razziali del 1938, Luigi mantiene il lavoro senza problemi. Dopo la guerra, Maria Silvia frequenta il liceo scientifico Ippolito Nievo, a due passi da casa sua, e poi la facoltà di scienze matematiche all'università, sempre a Padova. Della sua infanzia e adolescenza si sa che c'era una casa in montagna, in Val Gardena o in Val Badia, dove la famiglia Spolato, madre, padre e due figlie femmine, trascorreva le estati. Maria Silvia amava camminare in montagna da ragazza, lo racconterà lei stessa tanti anni dopo, e forse proprio per quello sceglierà Bolzano come casa, dopo tanto vagare, nell'ultima parte della sua vita. A Bolzano, Maria Silvia è morta il 31 ottobre del 2018. Aveva 83 anni, aveva passato gli ultimi 20 in una casa di cura che le aveva dato ospitalità. I 27 precedenti, invece, li aveva trascorsi su e giù dai treni, vagabondando per l'Italia. Siccome lei non c'è più e non può ricordare la sua storia, questo sarà un racconto costruito sull'assenza. Quello che voglio fare è provare a rimettere insieme i pezzi della vita di Maria Silvia, anche di quei periodi in cui non ci sono informazioni, attraverso il ricordo di chi l'ha conosciuta o l'ha incontrata, anche per poco. Ma dal momento che questa non è soltanto la storia di Maria Silvia, ma anche la storia di tutte quelle e quelli che, come lei, hanno vissuto in un'Italia bigotta, inospitale e crudele verso chi non aderiva alla normalità eterosessuale. In questo racconto voglio parlare anche con chi quell'Italia l'ha conosciuta o studiata e può aiutarmi a capire quanto era diversa, poco o tanto, da quella di oggi. Il mio viaggio nella vita di Maria Silvia è cominciato a ritroso, o meglio, dalla metà della sua vita, Roma e la piazza. E da lì volevo ripartire per mettere insieme i pezzi. Devo ammettere però che il punto di partenza non è stato propriamente incoraggiante. Ero venuta a Roma per intervistare Edda Billi, 88 anni, attivista lesbica, femminista, poetessa e molto altro. Negli anni 70 Edda aveva conosciuto Maria Silvia al circolo femminista Pompeo Magno, uno dei primi e più importanti, il motore di quella che era stata quella prima cruciale manifestazione di piazza dell'8 marzo 1972, quella con Maria Silvia da un lato e Jane Fonda dall'altro. Inoltre Edda è nata 2 anni prima di Maria Silvia, anche lei in una città di provincia, Follonica. E quindi avrei voluto chiederle com'era stato per lei crescere lesbica nel dopoguerra in una cittadina. Insomma, avevo tante aspettative, tanto che mi ero presentata all'appuntamento a casa sua con un'ora di anticipo. Finalmente è arrivata l'ora X, quindi posso citofonare a Edda sperando che si ricordi del nostro appuntamento. Purtroppo però le cose non sono andate come speravo. Ok, speriamo. Sono Sara Poma. Avevamo un appuntamento. Avevamo un appuntamento ora? Sì, per l'intervista su Maria Silvia Spolato. È che io sinceramente non credo di poterglielo fare oggi, perché ho un po' di febbre e ho tanta paura di attaccarglielo. Ah, ok. E quindi glielo voglio dire perché voglio essere onesta. No, certo. Ho capito? Certo. Allora sei gentile, mi richiami settimana. Va bene. Ok. Perché è troppo pericoloso. Certo. Guardi, è troppo pericoloso. No, ci mancherebbe. Grazie della comprensione. Certo. Se aspetto la sua chiamata. Va bene. Ciao, arrivederci. Ciao. Per fortuna Edda si è ripresa nel giro di un paio di settimane ed è tornata alla sua vita di sempre, fatta di amiche che la vanno a trovare e partitelle a burraco. Ci siamo quindi date un appuntamento, questa volta telefonico, per recuperare la nostra conversazione mancata. La prima cosa che volevo sapere da lei è quale fosse il suo ricordo di Maria Silvia. Sì. Maria Silvia Spolato era una folle donna meravigliosa, una matematica eccellente, veramente un genio di matematica, di una profondissima cultura, ma profonda veramente, di una profondissima cultura. È stata la primissima donna che è scesa in piazza con un cartello e questa era stata buttata fuori dalla scuola. Lei si è ritrovata senza lavoro, capito? E da lì è cominciata la sua vita di raminga, che è gente lei. Cioè, i primi tempi no, stava anche abbastanza con noi, veniva anche a Pompeo Magno, ma piano piano, non avendo più, non aveva più la casa, non aveva più l'appartamento e aveva trovato un sistema molto intelligente. Lei prendeva un treno a Roma e andava verso Bolzano, e poi quindi dormiva anche in treno. Poi da Bolzano, prendeva il treno e tornava a Roma, capito? E lei è vissuta sui treni in questa maniera, guarda, una cosa pazzesca. Poi io la vedevo, io la incontravo perché un po' di aiuto gliel'abbiamo dato, sia chiaro. Ma poi è diventata veramente una vagabonda, la vagabonda con la V maiuscola. Lei girava, si muoveva, andava, incontrava e piano piano si è sempre isolata, però si è anche allontanata da noi. E quindi ha fatto una vita abbastanza da misantropa e fu molto contenta quando mi dissero che invece a Bolzano aveva trovato un rifugio dove era stata accolta bene. Un'altra cosa che mi interessava capire da Edda è come è stato per lei accorgersi di essere lesbica negli anni 50, nello stesso contesto storico in cui, immagino, avvenne la presa di coscienza di Maria Silvia. Ma intanto una come me si accorge di essere lesbica in un paese, in un paesino come Follonica, ti assicuro che non è stato lo scherzo, perché io orgogliosamente ho detto di esserlo e ti assicuro che è stata una reazione terrificante. Tant'è vero che poi sono dovuta andare via da Follonica, perché a vivere il lesbismo in quell'epoca era veramente dura. Tu allora, quanti anni avevi quando hai fatto coming out? Me ne sono accorta che avevo 13-14 anni, a 15-16 l'ho detto. Una follia, insomma, pura. E la tua famiglia ti allontana? Cioè, com'è stata la reazione? No, non è che sono andata io via. Okay. Io, anche perché mi ero innamorata di una donna, 10 anni più grande di me, e ero orgogliosissima di amarla, capito? E quindi le dicevo, non è che non me lo va a dire, capito? E quando eri ragazzina c'era qualcosa, un libro o qualcosa che ti aveva fatto capire che non eri... Certamente, amore, dovresti saperlo. Si chiamava Il posto della solitudine. È stato famosissimo. Era un libro che veniva letto addirittura. Tu lo conosci? Lo conosco, perché è la cosa incredibile è che è stato lo stesso libro anche per me, ma 50 anni dopo, capisci? È incredibile, no, questa troppo cosa. Bello, troppo bello. Il libro a cui Edda fa riferimento e che in qualche modo ci accomuna si chiama, come ha detto, Il pozzo della solitudine. L'autrice è Radcliffe Hall ed è una specie di super classico della cultura lesbica. Fu pubblicato in Inghilterra nel 1928 e subito ritirato per oscenità. Ma la censura non toccò gli altri paesi. In Italia arrivò nel 1930, in barba all'oppressione culturale fascista, che notoriamente neanche contemplava l'esistenza delle lesbiche. Quel libro è finito anche nelle mie mani di ragazzina alla fine degli anni Ottanta. L'avevo preso in prestito alla Biblioteca Bonetta di Pavia. Mi ricordo ancora la copertina rigida, con una rilegatura di altri tempi, sarà stata forse l'edizione di qualche decennio prima. La storia era tragica, il linguaggio pomposo e lirico. Raccontava le vicende amorose di una donna di nome Steven. I genitori volevano un maschio. Nata in epoca vittoriana da una famiglia ricchissima, destinata a innamorarsi infelicemente di donne che poi si sarebbero sposate con uomini, disconosciuta dalla famiglia, esiliata a Parigi, condannata alla solitudine. Nonostante la cupezza della storia e la solitudine nel titolo e nell'epilogo, quel libro, letto di nascosto nella stanza che dividevo con mia sorella, attenta a non lasciarlo in giro, aveva avuto su di me lo stesso effetto che aveva avuto su Edda, anche se ci separano generazioni intere. Come per lei decenni prima, anche per me alla fine degli anni Ottanta, prima di internet, in una cittadina lombarda assopita, non c'era molto altro che parlasse del mio essere gay. Non c'erano coming out pubblici o serie TV in cui identificarsi o canali YouTube da seguire. Non c'erano ancora film a cui potessi avere accesso. Nel 1991 ci sarebbe stato Pomodori Verdi Fritti, visto al cinema e rivisto in loop fino a consumare la videocassetta. Perché se ne andò con Iggy Threadgood quel giorno? Risponda alla domanda, signora Bennett. Perché lei... è la migliore amica che possa esistere. E io la amo. Soltanto anni dopo avrei scoperto che quella che nel libro era a tutti gli effetti una storia d'amore, nel film era stata edulcorata e trasformata in un'amicizia intensa fra due donne. Hetero washing si direbbe oggi, ma nel 1991 a Pavia non esisteva nemmeno questo concetto. Insomma, Il pozzo della solitudine, con tutti i suoi limiti letterari, mi aveva fatto sentire meno sola. Quel libro che, in una maniera melodrammatica, in cui oggi fortunatamente non mi riconosco più, finiva con la protagonista che lanciava una preghiera a Dio e diceva «Concedete anche a noi il diritto di esistere». Mi aveva in qualche modo detto che esistevo. L'esperienza di mia moglie, Lucrezia, è stata per certi versi più divertente. sicuramente più pop e moderna della mia. Mi dai il caffè? Ne abbiamo parlato un sabato mattina. Grazie. Mentre facevamo colazione. Grazie. Lo zucchero. C'erano delle cose in cui ti sentivi rappresentata, non so, in TV o che? No, c'era... cioè, c'era pochissimo, c'era Buffy, c'era Xena, ma a parte quello nulla di comparabile a quello che c'è adesso. E non essendoci appunto alcun tipo di rappresentazione dell'omosessualità, io pensavo di essere un maschio nel corpo di una femmina. Però tutto ciò si risolse quando una domenica, mi ricordo che ero a pranzo da mia nonna, al telegiornale venne intervistata questa donna, evidentemente butch, che con la voce camuffata, ripresa di spalle, raccontava della sua relazione con una donna, come... appunto, come se stessero intervistando, non so, Messina Denaro, come se avesse fatto qualcosa di tremendo e quindi non voleva farsi riconoscere. Mm-hmm. Però la ringrazio perché in quel momento io ho pensato, ah ok, quindi esistono donne che hanno relazioni con donne, quindi non mi devo più preoccupare di diventare un maschio. A livello inconscio cominciavo già a sentirmi un po' benedetta dal fatto che fossi lesbica, cioè fossi diversa dagli altri. Per questo devo ringraziare anche Madonna. Vedevo lei, vedevo la gente che le ruotava intorno e pensavo, sì, questa è la vita che io voglio avere, e dire quello che penso, fare quello che voglio, frequentare artisti, girare il mondo, divertirmi, non dover rendere conto a nessuno, non avere legami, non avere zavorre. Invece sei finita in Bovisa con te. Invece sono finita in Bovisa con te. Pensa un po', non ero così speciale. Lucrezia ha capito che esisteva una possibilità grazie a Madonna e a quella donna intervistata al telegiornale con la voce camuffata. Per me è stato un libro scritto 50 anni prima della mia nascita. Chissà qual è stata invece l'esperienza di Maria Silvia Spolato. Chissà se c'è stato anche per lei un momento preciso in cui ha realizzato di essere gay. Un momento che ha ricordato per il resto della vita. Chissà se mentre frequentava lo scientifico a Padova, come la me stessa liceale, si era innamorata di qualche compagna di classe e aveva deciso di tenerselo per sé. Chissà soprattutto quando e in seguito a cosa ha trovato il coraggio di andarsene da Padova per trovare la sua indipendenza, prima a Milano e poi a Roma, dove sarebbe cominciata la seconda parte della sua vita. Prima è una produzione di Spotify Studios in associazione con Cora Media. Executive producer Jacopo Penzo. La cura editoriale è di Ilaria Orru con il supporto di Alessio Olivieri. Registrazione, sound design e musiche di Francesco Ferrari per Frigo Studio. La sigla originale è stata scritta e suonata dai Berlinist.